Letture di Radio 24. Su proposta del ministro della Giustizia Paola Severino, il 14 febbraio è stato approvato il decreto legge svuota carceri. Tra le misure introdotte per ovviare al problema del sovraffollamento degli istituti di pena, la possibilità, per circa 3.500 detenuti, di scontare a casa gli ultimi 18 mesi di detenzione. Ma in un sistema giudiziario che di fatto incoraggia l'illegalità, liberare anzitempo i criminali solo perché lo Stato non è in grado di costruire nuove carceri non è il modo migliore per avviare la riforma della giustizia. Penso a cosa provano le vittime di violenze e i loro familiari, al pensiero che i colpevoli stanno uscendo dal carcere anzitempo. Al loro posto impazzirei di rabbia e di dolore. A parte l'omicidio, per cui non c'è rimedio, ogni violenza lascia uno strascico nell'anima delle vittime. Penso alle violenze sessuali. Cosa aspetta il governo a intervenire per decreto sull'obbrobrio per cui lo stupro di gruppo non implica il carcere immediato? Ma anche solo ai furti nelle case, allo scippo, alle percosse, alle minacce di morte, alle estorsioni, ai tanti casi in cui un innocente subisce un danno ingiusto, che è sempre anche un danno morale, in parte risarcito dalla punizione del responsabile. L'idea che il colpevole, spesso sanzionato blandamente e al termine di processi infiniti, venga liberato perché non ci sono abbastanza posti in carcere o abbastanza guardie carcerarie è un'ingiustizia da togliere il sonno. Sono decenni che si parla di sovraffollamento, ma quanto tempo occorre per costruirle, queste benedette nuove carceri? Senza arrivare ai casi estremi, come il pugile ucraino che ha massacrato a Milano la prima donna incontrata per strada e se l'è cavata con 5 anni di manicomio criminale, a proposito, stanno per chiudere pure quelli, credo che ogni italiano nella vita abbia subito almeno una volta un torto a causa del pessimo funzionamento della macchina giudiziaria, penale o civile. Penso a chi denuncia l'usuraio o l'estorsore e dopo poche settimane se lo vede passeggiare libero davanti al negozio o all'azienda. Penso a chi ha lavorato per privati o per la pubblica amministrazione e non viene pagato, magari mentre Equitalia, lei sì inflessibile, lo perseguita per una multa mai notificata e decuplicata nel tempo. È evidente che un simile sistema, premiando i malandrini, incoraggia l'illegalità. La giustizia civile non consente ai creditori di far valere i loro diritti. La giustizia penale non sanziona i colpevoli, se non all'inizio, con quella carcerazione preventiva di cui spesso si abusa. Nel nuovo modo di vivere che il governo Monti propone agli italiani, non è prevista anche la punizione del reo? Il ministro Severino annuncia riforme per rendere più efficiente la giustizia. Liberare anzitempo i colpevoli le pare il modo migliore per cominciare? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Aldo Cazzullo, Il male premiato, dal Magazine 7 del 16 febbraio.